Il gastronauta di Davide Paolini. Ritorno alla terra, in viaggio nel mondo dell'agricoltura. Mare senza pesci, eccoci a parlare di questo argomento, ma cosa ci riserverà il futuro? Dovremo mangiare tutto pesce di acquacoltura? Bene, su questo argomento oggi faremo un viaggio, andremo a scoprire un po' le aree italiane dove si fa acquacoltura e andremo a scoprirne anche i segreti. Ma l'acquacoltura è una forma di agricoltura? E allora su questo argomento ne parleremo con Maria Severina Liberati, che è dirigente della Direzione della Pesca Marittima e Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole. Buongiorno a Maria Severina Liberati. Buongiorno. Allora, l'acquacoltura appartiene al Ministero delle Politiche Agricole, ma ha una sua suddivisione, immagino, molto particolare, o è veramente una forma di agricoltura, così la possiamo considerare? È sicuramente una forma di agricoltura, in quanto si tratta di allevamento di specie zootecniche e quindi è inquadrata nell'attività agricola. È ovvio che è nata nell'attività di supporto della pesca, ma già dagli anni 70 si è organizzata su scala industriale, ha registrato tassi di sviluppo elevati e quindi ha acquisito una sua dignità indipendente e, come ha detto nell'introduzione, molto rilevante. Ecco, ci può dare dei dati italiani sull'acquacoltura? Certamente, dunque innanzitutto appunto l'acquacoltura è un trend positivo abbastanza rilevante rispetto soprattutto a quello che è la prospettiva della domanda e quindi ha una struttura concentrata su circa 1000 impianti distribuiti il 60% al nord, regioni quali il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, gli Uniti la fanno abbastanza da padrone, ma non escludiamo anche la Puglia, andiamo poi in regioni come possono essere la Liguria, la Toscana, la Campania e ovviamente le isole, tra cui troneggia anche la Sicilia, senza trascurare altre forme che possono essere più valide come quelle della regione Lombardia. Quindi siamo circa su 1000 allevamenti, 60% al nord, un 50% abbondante tra centro e il sud e un 20% grosso modo alle isole. E gli addetti sono un numero abbastanza consistente, se questo può essere interessante posso dire che superano i 13.000 addetti per tutto l'indotto, quindi tutta la filiera, sia in allevamento che appunto a valle dell'allevamento. Bene, bene, questo quadro, questa fotografia è molto, molto importante, perché credo che molti ogni mattina si recano ad acquistare il pesce, forse non se ne rendono conto, ma io voglio chiedere a Valentina Tepedino, che è direttore di Eurofish Market, volevo chiederle questo. Valentina, è una necessità l'acquacoltura? È diventata una necessità? Sì, assolutamente una necessità, perché tutti, anche gli organismi internazionali, anche come la FAO, stimano che comunque a livello mondiale, cioè, non può esserci, diciamo, una risorsa alternativa per chi vuole mangiare pesce se non nell'acquacoltura, perché la pesca comunque rappresenterà sempre meno, ma anche in funzione della domanda che comunque è aumentata, cioè a prescindere dal fatto che le risorse marine stanno diminuendo, però la domanda aumenterà sempre proprio in base al fatto che molta più gente in futuro si potrà permettere di mangiare pesce, perché si dice appunto che i nuovi ricchi saranno cinesi, in particolare africani, quindi come popolazione che richiederà finalmente di consumare anche questo prodotto. Maria Severina Liberati, volevo chiedere questo: è in grande crescita l'acquacoltura in Italia? Non è in grande crescita a livello produttivo, ma sicuramente per quanto riguarda la domanda è stabile, ed è un dato molto importante, perché il consumatore dei prodotti di acquacoltura è un consumatore profondamente, estremamente fidelizzato, in quanto i prodotti vengono forniti alla grande distribuzione quasi per la totalità, 70-80%, già lavorati o semilavorati. Ma anche il prodotto fresco viene offerto con una garanzia di costanza di presenza sul mercato, una influente flessione del prezzo, con le stesse caratteristiche di taglie e di capacità e proprietà organolettiche. Quindi il consumatore è molto fidelizzato e crea quindi una forte richiesta di questi prodotti. Per quello che riguarda l'espansione, è ovvio che siamo in una prospettiva comunitaria molto importante, perché ovviamente con la nuova PCP e con gli orientamenti della Commissione Europea abbiamo in atto l'allestimento del piano strategico proprio per la promozione dei prodotti di acquacultura, che deve prevedere entro il 2020 un forte incremento di questi prodotti e quindi anche un forte sostegno a quelle che possono sembrare le limitazioni della normativa attualmente in vigore sulla salute, sull'etichettatura, su tutti i vincoli che possono sembrare più o meno burocratici e quindi aggravano il costo della produzione. Invece fare di questi un elemento di plusvalore sia per chi acquista e di integrazione di reddito per gli operatori. Grazie Maria Severina Liberati. Valentina Tepedino, che è ancora con noi, volevo chiederti: ma dal punto di vista, chiamiamolo così, organolettico, c'è differenza tra un pesce ottenuto appunto con l'allevamento e un pesce invece pescato, un pesce di mare? Oh, assolutamente, molti si sono concentrati su questo tipo di studio, e proprio per dimostrare quanto ormai il pesce di allevamento si sta avvicinando al pesce cosiddetto selvatico. E praticamente gli ultimi studi appunto hanno dimostrato che è sempre più vicino a questo profilo, tanto praticamente da essere non significativa la differenza. Sto parlando chiaramente di prodotti che sono allevati con i criteri più giusti, quindi sostanzialmente il pesce è ciò che mangia, quindi se lo nutro in un certo modo avrò poi il profilo nutrizionale dovuto. E qui mi riporto anche al fatto ultimamente che si è parlato di mangimi nei prodotti ittici, e appunto quelli sono molto importanti, quindi se non si dà al momento, non si deve mangiare pesce chiaramente al pesce, mancano poi quegli acidi grassi polinsaturi magari che sono così tanto importanti, per cui il consumatore poi sceglie di mangiare questo prodotto. Si stanno studiando tante cose alternative, però ripeto, sicuramente oggi tra l'allevamento in gabbie galleggianti a mare e notevoli migliorie sui mangimi, si è arrivato ad un aspetto esteriore, ad un aspetto interiore molto interessante. Ecco. Grazie Valentina Tepedino. Bene, allora grazie. Passiamo, ora abbiamo un nostro, diciamo, interlocutore che abbiamo fatto sempre intervenire spesso. Abbiamo Corrado Piccinetti, biologo marino. Buongiorno, professore. Buongiorno, tutto bene? Sì. Sì, bene. Senta, professore, volevo chiederle questo: ma servirà poi l'acquacoltura a salvare il mare dal disastro, alcuni pesci dall'estinzione, oppure servirà ben poco? No, per servire servirà sicuramente, perché una produzione crescente di prodotto ittico verrà dal mare. Evidentemente non tutte le specie sono allevabili e non è nemmeno opportuno allevarle tutte, perché in alcune c'è un costo elevato per tenerle, per separarle, eccetera. Però normalmente una produzione, ad esempio le pensi, i miti di Ocosse, ormai la maggior parte vengono coltivati o allevati, le vongole Filippine o vongole veraci, quelle che mangiamo con gli spaghetti molto spesso, sono quasi tutte di allevamento. Quindi per queste specie ci può essere un incremento di produzione. Spigole, orate sono già abbastanza diffuse, ma se noi vogliamo pensare che, diciamo, di andare avanti, le sardine o le alici, nessuno farà l'allevamento perché costano talmente poco che non vale la pena, diciamo, allevarle, ecco, tutto lì. Beh, comunque guardi che il prezzo delle acciughe e delle alici sta crescendo, non è più così a buonissimo mercato, anche perché in alcune aree note in Italia quest'anno è passato ben poco, per cui i prezzi stanno lievitando, e se andiamo a mangiare un'acciuga del Cantabrico ci rendiamo conto, insomma, che non è così a buon mercato. Mi è capitato un marchio molto particolare spagnolo, un'acciuga sott'olio, quindi diciamo dopo varie lavorazioni un euro cada una, insomma, quindi non siamo proprio a buon mercato. E c'è la probabilità che sia italiana quell'acciuga, perché da noi io sono qui con dei pescatori, sia italiani che croati, che pescano le acciughe a Chioggia e le esportano in Spagna, dove vengono lavorate, scatolate e poi rimandate in Italia. Però le acciughe in Italia al pescatore non gli danno certo più di un euro al chilo, non all'acciuga. No, certo. Quindi a un certo punto c'è una differenza notevole, perché c'è questo, queste linee commerciali così, e chi ha le fabbriche per lavorarle lavora comprandole dove gli costano di meno. Ma la cosa strana è che se andiamo a vedere i cognomi, diciamo, dei marchi famosi del Cantabrico, sono tutti di origine italiana, quindi questa è abbastanza dire, siciliana in particolare. Ma volevo così sentire da Renato Palazzi, che è il referente centro ittico di Bonello di Porto Tolle, che, diciamo, questo centro ha un'acquacoltura di tipo estensivo. Ecco, prima poi parleremo di che cosa vengono allevate, però io vorrei chiedere, Palazzi, che differenza passa, lo spieghiamo ai nostri radioascoltatori, tra acquacoltura di tipo estensivo e invece di tipo intensivo? Buongiorno. Buongiorno intanto, buongiorno a tutti. Ma sostanzialmente è una tipologia di allevamento che sta agli antipodi rispetto all'intensivo, parlo dell'estensivo. Estensivo significa in buona sostanza bassa densità di pesce e nessun tipo di apporto energetico esterno, quindi nessun utilizzo di mangime. Di contro l'intensivo consente un allevamento di molti animali, molti pesci in poco spazio, ma necessariamente bisogna fornire loro del mangime e anche in qualche caso dell'ossigeno. Ecco, nell'acqua, sì. Da voi si fa riproduzione e pre-ingrasso della vongola verace e dell'ostrica, ce lo spiega cosa avviene? Sì, noi reperiamo i riproduttori degli animali, le due specie, anzi le tre specie, perché facciamo la vongola filippina e anche la vongola nostrana, la Tapes decussatus, oltre che l'ostrica. Reperiamo i riproduttori nel periodo autunnale, li termocondizioniamo, che non è nient'altro che far credere loro che l'inverno viene anticipato, e quindi poi facciamo una riproduzione in gennaio, otteniamo le larve, cioè sintetizzo, insomma c'è una fase di allevamento larvale di circa un paio di settimane, e poi abbiamo le piccole vongole, le piccole ostriche. Parlo di animali che hanno una conchiglia della lunghezza di circa un millimetro. È un tipo di animale che non è ancora idoneo ad essere seminato in laguna per la fase finale dell'allevamento, è troppo piccolo e quindi necessita di una fase di cosiddetto pre-ingrasso, quindi in strutture posizionate all'interno del bonello, che non è nient'altro che una valle da pesca, li pre-ingrassiamo fino alla taglia di circa 8-10 mm di lunghezza, dopodiché vengono conferiti alle società di pesca, ai pescatori e agli allevatori, che li posizionano sul fondale delle lagune per la fase finale. Bene, grazie Renato Palazzi, grazie perché è stato chiarissimo, quindi molti così, credo che molti dubbi di molti radioascoltatori sull'estensivo, intensivo e sul resto siano stati, per così dire, esauditi. Allora, devo tornare a Corrado Piccinetti in Croazia, perché cosa sta facendo quei pescatori in Croazia, professore? I pescatori della Croazia è entrata dal 1° di luglio nell'Unione Europea. Tutti gli anni i pescatori croati hanno delle loro riunioni, quindi fanno l'assemblea che è sull'isola di Calidi, che è di Ponte Gara, e ci hanno invitato come Italia, perché essendo anche loro entrati nell'Unione Europea hanno gli stessi problemi che abbiamo noi. Dobbiamo convivere, trovare delle forme di collaborazione, trovare delle forme di integrazione dei mercati. Per adesso erano dei mercati separati, quindi loro pescano, ad esempio, servire per metterli in scatola, noi lo pensiamo per il mercato, per le nostre industrie di conservazione non ci sono più in Italia, sono molto molto diminuite, ce ne sono restati in alcune regioni particolari tipo Campania e Sicilia, ma per il resto sono spariti. Quindi si tratta di discutere, ci sono con me anche dei rappresentanti delle organizzazioni pescatori italiane, in modo da parlare, cercare di trovare degli aspetti di comune interesse, perché ormai dobbiamo gestire insieme queste risorse che erano comuni a prima ma gestite separatamente. Adesso saranno gestite anche con le stesse regole, questo è molto importante. Bene, e ora voglio chiedere a Pier Antonio Salvador, presidente dell'Associazione Italiana Piscicoltori. Beh, liberiamo il professor Piccinetti perché sento che magari è in acqua, quindi si sente già telefonicamente che è qualcosa di poco chiaro. Pier Antonio Salvador, presidente dell'Associazione Piscicoltori Italiani, buongiorno. Buongiorno e grazie di avermi invitato a questa prestigiosa trasmissione. Grazie. Ci fa un quadro dell'acquacultura italiana anche dal punto di vista qualitativo, e poi anche, diciamo, vorrei parlare anche di storione e di caviale, perché mi sembra che sia un argomento molto interessante. Allora, siamo l'Italia vive nell'acqua, è uno stivale nell'acqua, nell'acqua salata, ma su al nord e al centro e un po' in tutta Italia abbiamo anche dell'ottima, della straordinaria acqua dolce. Abbiamo le lagune con le zone umide, in Sardegna, tutta la zona del nord est d'Italia, per cui abbiamo tutte le caratteristiche, le potenzialità e le prerogative per essere un paese che fa acquacultura. Purtroppo siamo invece messi male. Siamo messi male perché importiamo l'86% delle spigole e delle orate a fronte di 8.000 chilometri di costa, di mari dove potremmo fare tranquillamente dell'acquacultura, lontani dal turismo, per carità, preservando tutto in un contesto di acquacultura sostenibile. Abbiamo delle risorse idriche stupende, l'idroelettrico le ha usate travisando molto il paesaggio, però sembra che l'acquacultura sia impossibilitata a muoversi. Le faccio un esempio. La Cina consuma 48 milioni di tonnellate di pesce, di prodotto ittico, anzi per meglio essere, e il 70% è di acquacultura. In Europa importiamo il 70% di prodotto ittico dall'esterno e il 50% è di acquacultura. In Italia siamo bloccati come il resto d'Europa sull'acquacultura, è un peccato. Ecco, abbiamo delle caratteristiche ottime, perché per esempio lei diceva, a fronte di un'importazione dell'85% di spigole orate, riusciamo a esportare dei buoni quantitativi, per esempio di trote. L'eccellenza che lei diceva del caviale. Ecco, vorrei arrivare a questo, perché se ne parla spesso. Dopo quello che è successo, i casini che sono successi nei Mar Caspio, nel Mar Nero, dove è la zona più dedicata, più vocata, come si suol dire, al caviale, lì è una zona inquinatissima. Adesso la tendenza è di utilizzare caviale che da acquacultura, cioè dove i storioni sono controllati, perché il caviale, le uova di storione, devono vivere i storioni in un posto che è controllato e sicuro, per cui si preferisce, al di là di tutte dei fermi che abbiamo mentali sulla qualità, sulla naturalezza, eccetera, molte volte dobbiamo capire una cosa, che la qualità o le vecchie sensazioni che avevamo scontrano con la sicurezza alimentare. È meglio avere qualcosa che non è proprio selvaggio al 100% o che non rientra nei nostri concetti da favola, di paesaggio, però che ci dà la sicurezza. Perché tra il mangiare qualcosa che viene da un paesaggio bello e che non è sicuro, e mangiare qualcosa che è sicuro, mi insegna anche lei che la sicurezza è il suo vantaggio. Sì, certo. Certamente, diciamo, questa è una scelta che va fatta, però molte volte c'è anche, come posso dire, l'immaginario, no? Perché credo che il consumatore oggi, molta parte del consumatore, l'allevamento lo vede come un qualcosa magari di non qualitativo, probabilmente, ma di non, se vogliamo, romantico. Ecco, forse meglio romantico che qualitativo. Invece le dico, per esempio, il caviale, adesso che preferiamo, per chiudere il discorso caviale, sì, che preferiamo il prodotto d'acquacultura, noi produciamo in Italia il 40% del caviale mondiale di acquacultura. Bene. È un'eccellenza, è un'ottima qualità. Salvador, devo interrompere perché devo passare la linea alla regia. Io la ringrazio perché è stato molto chiaro e un contributo importante a questa puntata. Grazie. Il gastronauta. Parliamo sempre di acqua in questa trasmissione, torna sempre, ma ascoltiamo, perché c'è qualcuno che di acqua sicuramente ne ha parlato e ha diffuso l'acqua azzurra in tutto il mondo. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Beh, chissà se si può ancora bere molta acqua azzurra che troviamo in giro per il nostro paese, un po' in giro anche per il mondo, però sicuramente forse l'acquacultura è nata anche per questo e si è sviluppata anche per questo, ma ne parliamo con Gaspare Barbera, biologo e chef responsabile dell'impianto Acqua Azzurra, guarda caso, quindi l'abbiamo introdotto in maniera molto particolare. Acqua Azzurra è una società di acquacultura di Pachino. Buongiorno Barbera. Buongiorno. Allora, a lei le voglio fare una domanda che sta a mezzo tra, diciamo, il responsabile di un impianto di acquacoltura e di chef. Ma uno chef, quando si trova di fronte a dei pesci di acquacoltura, la nota la differenza rispetto a un pesce pescato? Beh, la differenza si nota anche perché i pesci pescati, come voi ben sapete, nei vari periodi, nei vari mesi dell'anno hanno un contenuto di grassi e quindi un sapore completamente diverso, variano già i pesci pescati. Rispetto a quello dell'acquacoltura ha un sapore più standard, il pesce d'acquacoltura è condizionato dall'alimento che noi distribuiamo, di conseguenza è più standard come qualità organolettiche delle carni. Ecco, a Pachino, avete questo allevamento di acquacoltura di Pachino, quali sono i pesci che vengono coltivati, chiamiamo così? Sì, i pesci che vengono coltivati sono principalmente spigole, bobranzini, levrate, un po' di ombrine e stiamo sperimentando la ricciola. Ah, quindi anche la ricciola. Ma la ricciola è già diffusa come prodotto di acquacoltura oppure è un tentativo, un'esperienza completamente nuova? Beh, è molto diffusa nei paesi dell'America Latina, è molto diffusa in Australia, ancora poco diffusa in Europa per le difficoltà della nostra specie mediterranea, che è la Seriola dumerili. Quindi, prego. E quindi stiamo facendo dei tentativi sia di riproduzione sia di prove di allevamento e per vedere anche le caratteristiche delle carni che vengono fuori da un periodo di allevamento. Ecco, rimango con noi perché ora andiamo a Orbetello. Orbetello è molto noto appunto come, sì, come luogo di allevamento. Andiamo da Marco Aldi. Buongiorno Aldi. Buongiorno, mi saluti tanto Gaspare Barbera, che è un amico. Ah, quindi vi conoscete? Sì, con Gaspare siamo molto amici, me lo saluti molto. Ma vi scambiate, ma guardi che è ancora in linea, la sta ascoltando, ma vi scambiate anche le esperienze, quindi? Sì, ma io ho avuto anche modo di assaggiare la cucina di Gaspare. Allora, com'è la cucina di Gaspare? Un cuoco provetto. Quindi, ma specialità pesce? Sì, specialità pesce, molto bravo. Aldi, voi siete ad Orbetello, quali sono, diciamo, i pesci? Di solito Orbetello si parla di muggini più che altro, o no? C'è tanta anche altra roba. Allora, io lavoro per l'Orbetello Pesca Lagunare, o la cooperativa Peschereccia, ed abbiamo un'esperienza, diciamo, dal 1945 che la cooperativa sfrutta la risorsa ittica della laguna di Orbetello. E soprattutto io parlo di estensivo, cioè di pesce che entra, monta dal mare dentro la laguna tramite le maree, che è novello, praticamente sono avanotti, e si accrescono in estensivo dentro la laguna, mangiando praticamente quello che trovano, quello che l'ambiente gli offre. Sono tutte le specie della linea Euriterme, quindi spigole, orate, e tutti i cinque tipi di cefali, le anguille, qualche sogliola, occasionalmente entra anche qualche sarago e qualche mormora, però le specie principali sono la spigola dorata e l'anguilla. E soprattutto non dimentichiamoci che il mugicefalus, quello da cui noi facciamo la bottarga e poi lo utilizziamo anche come prodotto, diciamo, di lavorazione finita, anche il fletto, praticamente le parti dei fianchi, che utilizziamo nel nostro centro di ristorazione, dove viene utilizzato per farci l'affumicato, tipo la pasta o anche il carpaccio di filetto affumicato di cefalo. Affumicato è molto buono. Senta Aldi, ma lo chiedo anche a Barbera eventualmente, poi lo chiederò anche a altri nostri ospiti, ma molta bottarga di muggine che si trova in vendita in Italia, e diciamo che le uova arrivano da molto lontano, è vero? Ma guardi, questo qui non lo so, questo dipende da una questione di tracciabilità del prodotto. Noi utilizziamo la bottarga nostra, che è la bottarga di Mugicefalus, che viene pescata prevalentemente qui nelle due lagune di Orbetello, sia quella di Levante che quella di Ponente. Utilizziamo soltanto la nostra. Beh sì, mi chiedo come mai ci sia una bottarga greca IGP e non ci sia una bottarga italiana. Questo mi rimane sempre un mistero. Ci stiamo lavorando. Noi come la bottarga siamo anche come presidio Slow Food, la bottarga di Orbetello. Perciò, insomma, diciamo che è abbastanza riconosciuta, anche valorizzata, capito, a questo punto di vista. Barbera, ma Barbera, lei l'ha usata la bottarga di Mugine? Sì, io lavoro in Sicilia, ma abito a Cagliari, quindi conosco le lagune sarde. Quindi conosce, ecco, Cabras, insomma. Conosco Cabras benissimo perché ci ho anche lavorato. Posso spendere una parola su questo, nel senso che tutte le cooperative che gestiscono le lagune normalmente utilizzano la bottarga del Mugicephalus che proviene dalla laguna che gestiscono. Normalmente tutto l'altro prodotto che lavorano tutte le altre aziende viene dall'Australia, principalmente una volta dal Messico, ora principalmente dall'Australia o dal Nord Africa, molto dal Nord Africa. Comunque normalmente il prodotto italiano è il prodotto che viene dalle cooperative che gestiscono le lagune. Ecco, infatti questo del Nord Africa è un fatto ormai abbastanza notorio, ma io voglio chiedere a Alessandro Buzzi, che è il biologo esperto di acquacultura della Federcop Pesca, come si pone la Federcop Pesca con l'acquacultura dal punto di vista anche istituzionale? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Dunque, noi diciamo per volume di produzioni le nostre cooperative sono circa il 15% della nostra totale produzione, quelle di acquacoltura. Chiaramente è un settore molto importante che negli ultimi anni, nell'ultimo quinquennio, è stato stabile in produzione. Chiaramente la sfida, sentivo prima gli amici di Erbetello che parlavano di bottarga, chiaramente una delle sfide per il futuro è sicuramente tentare di dare un valore aggiunto anche ai prodotti dell'acquacoltura riguardo alla trasformazione. Quindi quello che un po' manca ai nostri prodotti è sicuramente dare una filiera completa, questo è il punto. Esatto, già diciamo la filiera è comunque corta perché l'aspetto generale delle nostre cooperative di produzione è comunque produttori abbastanza grandi con un rapporto direi diretto con la distribuzione. Quindi questo sicuramente facilita, però sicuramente per tenere il passo insomma con i concorrenti esteri, specialmente Grecia e Turchia, diciamo, occorrerebbe probabilmente lavorare di più su processi di trasformazione che al momento sono diciamo sviluppati nel nord Italia, pensiamo alla trota ad esempio, però molto si potrebbe fare anche per le produzioni di piscicoltura classiche marine. Grazie Buzzi. Ora andiamo da uno dei pionieri dell'acquacoltura in Italia, da Marco Gilmozzi, che è presidente della società agricola Cosa, sempre di Orbetello. Buongiorno Gilmozzi. Sì, buongiorno a voi. Cos'è cambiato dai primordi dell'acquacoltura in Italia? Diciamo che quando abbiamo cominciato l'attività noi, si tratta del 75-76, eravamo veramente dei pionieri, qui non c'era nulla, il pesce veniva venduto senza che la gente sapesse che era prodotto di acquacultura. Noi abbiamo fatto un lavoro enorme. Perché la gente era molto diffidente sui prodotti di acquacultura, è così? Ma a quei tempi ancora non si conosceva proprio il prodotto di acquacultura, quindi entrava in filiera normale. Poi noi abbiamo lavorato molto per far conoscere il prodotto di acquacultura, e l'acquacultura è cresciuta moltissimo in tutto il bacino del Mediterraneo e oggi è chiaro che lei lo sa che più del 50% di tutti i prodotti che vengono consumati a livello mondiale provengono dall'acquacultura, è un dato che ci ha dato la FAO. Nel giro di 20 o 30 anni arriveremo all'80% del pesce consumato e proverrà dall'acquacultura. Sì, questo è un dato abbastanza significativo. Tutti gli amanti del pescato, quelli che vedono nel pescato qualcosa di superiore, credo che tremeranno, anzi saranno già impauriti, correranno a mangiare pesce fresco appena pescato. Ma questo cosa porterà? Ecco, diciamo, porterà una salvaguardia marina, una salvaguardia di specie di via d'estinzione, secondo lei? Diciamo che il problema è molto molto ampio. Se consideriamo che dagli anni 80 ad oggi il pescato a livello mondiale si appesta intorno alle 80 milioni di tonnellate, però la popolazione mondiale è cresciuta da allora di quasi 2 miliardi di abitanti, significa che già oggi, a prescindere dall'acquacultura, noi abbiamo che negli anni 80 avevamo a disposizione circa 15 kg di pescato pro capite, che sono diventati 12 kg di pescato pro capite oggi, e se siamo fortunati, visto che la tendenza è a diminuire il pescato e non aumentarlo, ma se dovesse mantenere costante, nel giro di pochi anni avremo a disposizione non più di 10 kg pro capite, è un dato preoccupante. La popolazione mondiale chiede sempre più pesce, l'alimentazione, certo. I medici, tutti chiedono un consumo, sì, maggiore di pesce, solo l'acquacultura li può dare. Ma io voglio tornare a Barbera perché voglio così un segreto, voglio capire un segreto in quanto chef. Ma Barbera, qual è il modo per distinguere un pesce d'acquacultura davanti a un bancone rispetto a un pesce chiamiamo pescato? Principalmente perché spigole rate comunemente sui banchi delle pescherie provengono al 99% provengono da impianti di acquacultura, di conseguenza. Quindi lì non si sbaglia, non c'è margine di errore. Sì. Quindi è una percentuale altissima, non c'è più un pescato di orate o di spigole, almeno che nel periodo non vengano pescate nel periodo di riproduzione, ma soggetti molto grandi. Nell'ordine dei 2-3 kg. Le pezzature taglia sotto il chilo normalmente provengono dagli impianti d'acquacultura, quindi non c'è dubbio. Una distinzione. Gil Mozzi, quali saranno le specie che si salveranno? Ma dobbiamo lavorare perché si salvino tutte le specie che abbiamo a disposizione. È chiaro che a mare lo sforzo di pesca che c'è stato è probabilmente eccessivo, come dice la FAO. In futuro, quando mangeremo un pesce selvatico, dovremo veramente fare una festa a casa. Il futuro però del pescato è nelle mani dell'acquacultura. Allora io voglio chiedere a Buzzi, proprio 30 secondi, se c'è una specie che ancora non è stata possibile allevarla. Diciamo che tecnicamente le difficoltà sono quasi sempre superabili. Prima sentivo il Gil Mozzi che ricordava i primordi dell'acquacoltura sulle spigole orate, le difficoltà che all'inizio si sono incontrate, poi superate. Quindi tecnicamente diciamo che tutto si può fare, c'è stato anche tentativi col tonno, mi sembra, col tonno, esattamente, sì, che hanno dato anche dei buoni risultati. È chiaro che è sempre poi un problema di mercato e quindi di disponibilità di avannotti e di costi, e quindi qualora ci dovesse essere una richiesta di mercato specifica per un pesce, nulla vieta la ricerca di provare. Bene. La strada per trovare il modo di allevarlo. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in viaggio tra, sempre però rimaniamo sempre nell'acqua, perché di acqua stiamo parlando e stiamo parlando di pesci. Bene, bene, acqua, pesce, quindi pesce di acquacoltura. Allora, ora chiediamo, abbiamo come ospite l'ingegner Roberto Co, che è amministratore della società Acqua, quindi l'acqua torna sempre, di Lavagna e provincia di Genova. Io voglio chiedere all'ingegnere, perché abbiamo fatto così un viaggio appunto sull'acquacoltura, come funzionano queste gabbie galleggianti che ogni tanto vediamo, magari passando sulle strade o magari anche così navigando sul mare, e dentro queste gabbie cosa succede? Qual è l'attività? Come funziona l'allevamento dentro le gabbie? Buongiorno ingegnere. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Guardi, dentro le gabbie in pratica noi mettiamo i pesci. La cosa che non è uguale, diciamo, dipende un pochettino da tutte le gabbie, che come lei ha accennato, gabbie sono galleggianti. Nel caso nostro, quelle posizionate a Lavagna sono anche gabbie sommergibili, perché sono esposte a forti mareggiate, per cui le gabbie possono essere, che è la particolarità, magari una curiosità, possono essere sommerse quando arrivano le mareggiate, anzi è meglio farlo per preservare l'integrità delle strutture e anche i pesci. Ecco, dentro queste gabbie mi racconti un po' come avviene, diciamo, un'attività sì, giornaliera? Ma allora, noi partiamo dagli avannotti, seminiamo nelle gabbie avannotti che sono in pratica stadi giovanili di pesce a una taglia indicativa di 4-5 grammi e, diciamo, provvediamo poi alla pesca un tempo successivo di circa 2 anni, quindi il tempo di accrescimento è molto lungo perché il pesce è comunque un animale abbastanza lento a crescere. L'attività giornaliera da una parte consiste nell'alimentazione dei pesci e dall'altra nel controllo delle strutture, perché specialmente quando operiamo in mare aperto io direi che la difficoltà maggiore che dobbiamo affrontare è proprio quella di mantenere integre tutte le strutture che sono destinate al contenimento dei pesci. Ecco, le faccio così un'interruzione a una domanda che è un po', come posso dire, un dubbio che viene spesso alla, diciamo, al consumatore normale su quello che, come viene alimentato un pesce. Ecco, qui ci sono molti, così come poi, molti dubbi sul tipo di alimentazione. Molti parlano che si fa, diciamo che si usano tanti sistemi per ingrassare, ecco, il pesce. No, ma allora sì, su questo secondo me c'è un po' di timore dovuto al fatto che secondo me in generale l'acquacoltura è comunque un'attività giovane, meno conosciuta rispetto agli allevamenti tradizionali di bovini o di ovini, insomma. Per cui un po' di insicurezza magari c'è, ma è del tutto infondata. I pesci vengono alimentati, parliamo di pesci carnivori innanzitutto, cioè sia le orate che i branzini, che sono le specie che si allevano maggiormente, sono pesci carnivori che mangiano altro pesce, quindi hanno necessità di proteine di origine animale e vengono alimentati con farina di pesce e olio di pesce e in parte con farine vegetali, proprio per un discorso anche di sostenibilità, proprio per cercare di, dato che il problema ormai a livello mondiale è quello del prelievo globale delle risorse ittiche, perché la domanda e il consumo a livello mondiale sono molto forti e la pesca non riesce a soddisfare. Certo. Bisogna anche che l'acquacoltura riesca a essere sostenibile. Per essere sostenibile non può consumare troppo pesce selvatico, perché se consumasse troppo pesce selvatico sembrerebbe una risoluzione del problema, ma in effetti non lo sarebbe. Certo. Perché da un lato sì, produciamo pesce che non peschiamo perché lo seminiamo noi in mare, quindi non andiamo a incidere direttamente sulla gestione delle risorse, ma se per alimentarlo dobbiamo consumare troppo pesce selvatico rischieremmo comunque di creare un danno all'ecosistema. Certo. Bene, ora per questo dicevo, una parte consistente è data anche sotto forma di farine vegetali, che sono sempre proteine, ma sono rinnovabili. Grazie all'ingegner Roberto Co. Io ora andrei in Sardegna perché in questo momento, diciamo, molto turismo va verso la Sardegna e chi va al mare d'estate cerca sempre pesce. E allora io chiedo a Mauro Manca, che è un acquacoltore dell'Associazione Sarda Acquacoltura di Alghero, quanto pesce di acquacoltura si mangia in questo periodo in Sardegna e quanto invece di quello, diciamo, pescato di mare. Buongiorno Manca. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti e saluto anche l'ingegner Coll, l'amico Roberto. Bene, vedo che vi conoscete abbastanza bene. È un mondo tra di voi. Molto piccolo, sì, il nostro, sì, quindi sì, ci si conosce tutti. Certo. Dicevo, in Sardegna in questo momento questo è un momento di allarme per le produzioni ittiche, perché a fronte di grandi richieste di prodotti, di grandi consumi, il pesce locale è scarsissimo. Lei pensi che degli 11 impianti di acquacoltura esistenti in Sardegna impegnati nell'allevamento di orate e spigole, il 70% è in un momento in cui non è ancora pronta la produzione nuova e ha esaurito le scorte di prodotto vecchio, quindi prodotto non vecchio ma della precedente campagna di allevamento. Quindi siamo in un momento in cui drammaticamente le importazioni hanno raggiunto livelli superiori all'80%, 80-90%. Lei sta parlando di importazioni dall'estero? No, parlo di importazioni in generale. Noi siamo un'isola, abbiamo una connotazione, certo, spesso molto marcata di territorialità. Quindi quando noi parliamo di importazioni finiamo per essere per parlare della Sardegna. Tenga comunque presente che il dato nazionale non si discosta molto. La media annua è di un'importazione di prodotti ittici che viaggia intorno al 77%, io ho i dati dell'ISMEA di fronte, quindi non si sbaglia molto. Beh, io insisto spesso nel dire che il pesce va mangiato in inverno piuttosto che in estate, anche perché in estate tutti vanno nei posti di mare e pensano di mangiare pesce fresco, Manca, è così? Ma purtroppo è così, il problema però è un altro, se lei mi consente. Allora, certo, noi abbiamo un problema legato al fatto che il mondo che ci circonda non ha compreso qual è l'importanza del futuro dell'acquacoltura. Noi abbiamo toccato il fondo per quanto riguarda la pesca tradizionale e oggi i dati della Comunità Europea parlano dell'82% di specie ittiche a rischio di estinzione nel Mediterraneo. E all'acquacoltura compete il ruolo di garantire le quantità di prodotti ittici da servire al mercato, che sono fondamentali in estate e in inverno, perché forse in estate ancora più che in inverno è necessaria una dieta leggera, non grassa, che ci consenta di mantenere freschezza e di digerire velocemente. Il problema vero è che, come ha detto lei, in un mondo in cui la tracciabilità dei prodotti ittici è ancora una chimera, e noi come Coldiretti da tempo stiamo lottando per garantire questo, non esistono certezze e la speculazione finisce per essere forte. Certo. Lei pensi che il ristoratore è equiparato al consumatore finale, quindi non è tenuto a garantire al cliente la tracciabilità del prodotto, e questo ci mette in mano ad una gamma di persone che sono i ristoratori, nelle quali ovviamente ci sono le persone serie, ma come spesso capita ci sono anche molte persone che pur di sbarcare l'onario, insomma, giocano a 3-7 con i prodotti ittici. Sì, certamente sul pesce manca molta informazione, ma sì, manca anche l'informazione nelle pescherie sui cartelli, per i cartellini. Manca molta informazione e anche molto poco è compresa dal consumatore. Faccio un esempio, lei poc'anzi parlava di alimentazione dei pesci. Il pesce è l'unico animale che si consuma intero, è l'unico animale che viene allevato con grande attenzione, perché la sua dimensione fisica e la sua forma fisica garantiscono al consumatore la freschezza. Ecco perché non si possono e non si utilizzano mai sostanze coadiuvanti della crescita, perché deformerebbero il pesce, lo renderebbero grosso e grasso e nessuno lo comprerebbe più. Sì, è la prima garanzia di qualità. Devo dire che ancora, secondo me, il consumatore non percepisce certi concetti che sono legati all'acquacultura. Credo che sia anche un fatto di informazione, ma questo potrebbe essere un argomento prossimamente da dibattere. Io ora voglio andare a Goro, alla Sacca di Goro, anzi provincia di Ferrara, che è una zona famosissima per la miticoltura. Buongiorno a Vadis Paesanti. Buongiorno a lei e a tutti gli ospiti. Senta, voi producete vongole tutto l'anno? Noi produciamo vongole tutto l'anno, sì, diciamo che abbiamo, lavorando con un pescatore, diciamo così, a suo tempo diventato laureato, sì, poi, e lavorando come spin-off dell'università, lui con suo papà e aiutando naturalmente la marineria e il consorzio pescatori di Goro nel lontano 83, coadiuvato dal CNR, dal professor Breber dall'Università di Ferrara, abbiamo, diciamo così, reintrodotto la vongola verace, perché a quel tempo, diciamo così, alla fine degli anni 80, per, diciamo così, forse i sistemi di pesca o comunque una non gestione, come abbiamo oggi, visto che gli altri due colleghi del settore parlavano bene appunto dell'acquacoltura, di una non corretta gestione della vongola, praticamente è sparito anche l'ultimo esemplare o quasi. Passando da un'attività di pesca ad un'attività di pesca, ma di acquacoltura, e quindi gestita oggi Goro con i suoi 1400 addetti e le sue 1100 imbarcazioni, ne fa di fatto la marineria più grande d'Italia, anche se non come stazza delle imbarcazioni. E quindi è diventato oggi Goro da sempre, forse oggi un po' meno perché le altre marinerie sono cresciute, diciamo così, le confinanti nella tutta la zona del delta del Po, parlo degli amici a nord, i colleghi della Sacca di Scardovari ed altre lagune molto importanti per l'acquacoltura o venericoltura, meglio detto, perché mitili è di fatto, si intende cozze, in questo caso invece parliamo di vongole veraci. Ne ha fatto comunque sino al 95 Goro ha tenuto il 60% della produzione a livello nazionale, circa il 30%. Senta Paesanti, volevo chiederle questo: in questo momento, cioè, durante l'estate sicuramente c'è una grande crescita di domanda perché tutti vogliono mangiare gli spaghetti con le vongole veraci, è così? Confermo. Quindi, ma la produzione è costante durante l'anno o cresce durante il periodo estivo? Allora, durante il periodo estivo cresce, noi praticamente da tutto il ciclo segue la natura, noi e la natura, diciamo così, il turismo e quindi la richiesta, come giustamente diceva lei. Con l'apertura della stagione primaverile estiva, quindi tutti gli alberghi stagionali, i ristoranti stagionali, eccetera, la domanda di fatto cresce di circa il 40%. A differenza di quel che è ottobre-marzo. E gran parte di questo prodotto, in questo periodo, da marzo fino a settembre, e diciamo così, viene venduto, certo, piazzato in Italia. Durante il periodo invernale, invece, anche se c'è molta crisi, oltre che in Italia se non avessimo l'estero. La Spagna, che a differenza degli italiani noi abbiamo un consumo medio che va dai 18 ai 20 kg pro capite, lo Bene. Spagnolo è già 42 kg di prodotto ittico pro capite. Bene, io la devo interrompere perché devo chiudere questo viaggio tra i pesci di acquacoltura, e quindi ringrazio tutti gli intervenuti e auguro a tutti una buona giornata e buon pesce magari per questa serata. Grazie e un caro saluto da Davide Paolini. We'll be right back.